Brigido. 5. Sono Caballasi. E chi è? Chi è? Dica? Sono Caballasi. E bello. Sto usando un Intercam 34S, come va? La radio non è come quella là, però va benissimo, è chiara chiara. E vabbè, il microfono ormai sto usando, quello che mi hai dato tu. Gli ho fatto gli attacchi così, volanti. Per vedere se funzionava, cappa. Sì, bene, esce bene. Allora ce lo conservo e capiterà dalla qualcuno se ha bisogno. No, esce bene, esce bene. Allora di 5 sempre. Io sono appena arrivato, adesso fra un po' mi faccio la luce. Sì, guarda la foto. Via di lusso, come quello che ho io, ce l'ho anche io uguale tu, uguale. Solo che il mio è 34, però non è 34 normali, va a fa 34 su. Questo è 40. Il mio è 34, è uguale comunque, uguale. Chi è la gara? Vabbè, la faccio bagappuccio. E così ne aggiudo il discorso. Ah, riesce bene, quelle radio lì escono bene, anche quando lo stavo usando io usciva bene, col suo microfono Intec originale. E questo invece è Inuit, il microfono, quello là, quello normale. Sì, quello che ti ho dato io, invece io ce l'ho quello originale suo, proprio originale. Chiave. Sì, va bene. Vabbè, il tuo segnale con questo macchino è 7, mi sbaglio, 5, boh. Comunque a me mi ascolti bene, Ulu. Sì. E che lo smitter sicuramente vuole tarato. Perché in questo apparecchio si 6,5, quasi 7. Ah, no, ma anche quello là è perfetto lo stesso, quello che ho preso ultimamente. Quello che ti ho dato a te a sistemare il microfono, anche quello. È un po' che vendita tutti e due. Già l'ho visto. Se riesco a vendere prendo una Galaxy e basta. Cosa cazzo ne fai? Cosa pigli la Galaxy, un Barrazzoni, cosa ne fai? Già non fai rubi, chi? Ma no, è l'antenna che sei conta, non la radio. Prima di sistemare l'antenna tu. E tu ti pigli una radio manna, con certo watt, buru, chi tu di voi. Chi sa la musica però? No, la Galaxy c'ha 10 watt di uscita da 100 watt. 10 watt in AM va bene, la Galaxy va benissimo. E l'antenna già va bene, per fare due chiacchiere va benissimo questa, usare l'antenna di Ubuni. Ma ti credi che c'è un questa cosa, no? Che si pone nella Galaxy. Non c'è un bassai, mio Manuel, anche l'antenna è sempre chissà. Cappa. Lo so che è sempre quella antenna, però c'ha un po' di spinta con la Galaxy, c'ha più watt di spinta. Perché c'è da giudizio, buoni degli su Gosu. E così ne hai 30, minimo. Tu non lo puoi fare. Lo so, ma il cazzo, magari cazzo mi vede i soldi, buoni. Che cosa il preamplificato dell'antenna. Sì, guarda che con la Galaxy già lo usai, c'ha intrazia puro, già lo usai. Con 10 watt si deve entrare entro un mattessimo, con uno o con l'altro, capito? Chiara. Andare. Comunque già va benissimo, dai. Vabbè, se riesco a vendere, ne vendo. Ne prendo uno che abbia 271 canali, che c'ha male, FM e tutto, c'è, è tutto via dicendo. KK. A te, ma già lo sai, più di così non posso fare, anzi abbiamo già fatto troppo. Più di così, più di migliorare abbiamo già fatto, cosa puoi migliorare? Provare l'altra antenna, la PLC1000, ma cosa giamba? Ti cambierà qualche dB? Poi quella non la puoi tarare. Così che se ti stazionare un casino, perché riflette sulla facciata, sull'antenna lì. Cazzo, questa cosa c'ha? 1,1, 1,01, 1 di stazionare, quanto ne aveva? 1,06, 1,07, però con considerando dove è montata. Poi vabbè, l'abbiamo girata la staffa, bisogna girare la staffa verso sinistra, Manuele, così si apre ancora di più il varco. Ah, ho capito, verso il corrovino dall'altra parte. Sì, se c'è una 10 all'inizio, appena il dato, lo giri dalla parte opposta, la staffa è scoperta. Ma la lascio così, perché poi il cazzo magari la scusa non va bene neanche. Qua non so, ho toccato qualcosa, va bene, non sto strappando, no? No, radio 5 chiara di lusso. No, la lascio così, lui, io mi se ne muore così la terra. Se ne muore così già va bene, per fare quattro chiacchiere va più che bene. Eia, vabbè, procurati una di quella radio là. E quale? La Galaxy. E se riesco a vendere queste due, ti mando le foto così te le metti anche tu sul tuo sito. Gava. E 200 euro l'una. Rimano non le do, perdone, rimano le tengo lì. Vado benissimo, più che bene. Già le ho viste le foto. Aspetta, te lo condivido. E sei lui? E lo condivido direttamente io. E cosa? Il posto. Dove l'hai messo? Aspetta. Insomma, che qui, guarda, ho messo 200 euro. Radio perfettamente funzionanti. 100 euro l'uno. 100 euro l'altro. 200 euro. E scrivi però che uno c'ha le mani laterali pure, mio. Oh, Lu, vado a farmi la luce, a caso mai ci sentiamo fra un quarto d'ora, 20 minuti. Pubblicate, dai. Adesso sto cercando. No, comunque vabbè, sono te bene, dai. Pensavo peggio. Già va benissimo, va bene come radio, va benissimo. C'è anche le bande, è questo, solo che c'è 40 camere normali. Adesso se riesco a vendere tutte e due 200 euro aggiungo la differenza per una galassia come si deve, se riesco a vendere, se no lo tengo così, non mi interessa un caso. Te li ho condivisi. Ah, frasa! Su, che andiamo, su! Ah, guarda qua, sto pompermo! Tu mi hai andato a fare la luce. Adesso mi vai una faccia la luce, sto bevendo un bel bicchiere di pompermo per dimagrire. Sì, io sono anche già vivo. Cazzo, ho già fatto caldo, questo è tutto lo digestivo che stai vivo, è prima di mangiare. No, non sa la dieta, Lucia, lo sa. Cazzo, ma con Dreacco già questa gravina. Ah, vedi, mi hai mandato una foto che mi mangio della gravina. Se ti arrivi ti era tutto già avviato, no? Alla una, per dura, per la gravina. No, è ancora acceso il fuoco, sta accendendo ancora. Cosa ha avviato? Tanto era venuto un po' di tempo, mi sta roba. Dimmi! Mi mangiarti il coso per dimagrire. Pompermo quello di grassa, che pensieri. Ah, il pompermo ti fa scegliere i rassi. Ti stanno dritto. C'è anche un'altra persona che ci sono queste gocce che ti fa scendere la pancia veramente. Adesso vediamo. Guarda che ce lo stanno pubblicizzando su Facebook. qualcosa che mangi, se ti gonfia nello stomaco, ti riduce la voglia di ingozzarti. Ah, mi frega tanto, Luca, ci sono tutte fregature. Vai tranquillo. Ehi, io stavo prendendo un po' di gente, prendila anche. Devo stare bellona. E che va tu giù? Nulla. No, stavo cambiando il connettore di quel barattino là, che era più punto che avevo messo quella qua. L'ho messo a B, cambiato, l'ho messo a C. Ah. E vabbè. Oggi in caso oggi c'era caldo, veramente. Oggi c'era caldo, ma caldo. Ui ui ui. Riesco a vendere a quel pezzo, Lu? Sì. Quel pezzo riesco a venderle? Eh? Visese? Chi te balasa? A Visese? Sì, da Giuditto, buono 400, buone. Che cos'è a barre? No, no, fate scherzo, riesco a venderla a quel pezzo. Assolutamente no. E ha tu cazzo di bombo, sei fatta io? Sì, non di più, non di più, ma non di più. Rimane nei occhi. Ciao, rimangono qua, pane non ne stanno chiedendo, dai, non c'è problema. Mi metto in vetrina, se male altre. Adesso, peccato che questo ha 5 punte. Taglia quindi una. No, oh, che non posso mettere questo qua di microfono. Niente i stranieri. Niente i stranieri. Ah, va, casa mia. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo e faccio la luce, ciao. Raffaellino! Raffaellino! Del 2022 l'avevo fatta la domanda. E dove ti ho fatto vedere io? Ti ho mandato anche le foto di dove, di come entrare. E l'ho fatta a maggio del 2022 la domanda. 21, non 22, 21. Capitola. Quindi mi scade a dicembre a me. È 2021 più che altro, hai capito? No, io l'ho fatta nel 2022. Certo, anche io sono d'accordo con te. Se tu ti fai i calcoli, 2023, 2022, 2021, sono 18 mesi, quindi a un certo punto è 2021. Guarda che io gli noto non dubito niente, mi Natalì, te lo sto dicendo non per altro, non per cazzate, perché è così, hai capito? Quindi comunque sia bisogna presentare in pratica i reddito di cittadinanza nel 2023, basta, non devi fare altro, tutto finisce lì. No, a me mi scade nel 2023, mi scade a dicembre del 2023, perché io l'ho fatto nel 2022, a maggio del 2022, quindi mi scade a dicembre del 2023, capito? Perché a me mi dura 18 mesi. Ehi, ti sto dicendo, l'aggiornamento è così, devi fare così come ti ho detto io. Tagli quel foglio lì, dopodiché e si è a posto, basta. Io non ti ho capito una cosa vuoi dire. Io la presento quando mi cade a dicembre, così mi la fine a gennaio. Ecco, cosa vuoi ti dico io? Ma come vuoi? A un certo punto io non so cosa dire. Tutto quello che mi ha fatto poi così. Vabbè. Non c'è problema. Avanti chi è che vuole entrare? Avanti. No, io non ti capisco come parli. Con quella radio non si comprende nulla. Ho capito. Ok. Comunque stamattina mi sono recato a un certo punto, quindi vabbè briciola rigido poi data lì. Buonasera, buonasera, beh tutto va, tu tutto a posto, tutto a posto, siamo stati bene, dai, abbiamo passato una bella giornata in compagnia. La TV, là, io ho dovuto fare quella commissione, vabbè, ci sentiamo dopo. Yeah, ciao Natali. Manu. Oh, Lu. Natali non ha detto, intanto a pranzo non mangio, che Emanuele ha detto di... Ne è rimasta un bel, ha detto mi era ricca. Che cosa? Invece, mi pare che sta fatto un giro di banca, Natalino. No, Natalino. Cosa? Luca, cosa hai detto? Che stavi. Che Emanuele ha detto che te ne era ricchendo un bel, a che ne era rimasta un bel di questa roba. E che te stavi aspettando a lui. Infatti hai ucciso la gente da Edusi. Se si stava Edu morì di fammi. Ma ha detto se devo passare da Natalino, mi ha mandato un messaggio su WhatsApp. Ma basta Natalino per rimanere a tutte le camere in roba e per la sua carrighetta. Ma secondo te si è mangiata in macchina tipo gelato? Mi sa proprio di sì. Gatta, sì, quando sono cudurrato se non avevo appariciato e mangiato. Si è agitato a Emanuele in un momento di fammi. Che cosa fa da una macchina, Natale? Cosa, Emanuele? Si è ingolfato da una macchina. Ah, ingolfata, sì. Beh, mi lo posso immaginare. Vabbè, Pompugno, quello c'ha a posto, il Pompugno c'è, vabbè che non mi sente, c'ha l'antenna di gomma lui. Ehi, chi su c'ha buco, beh? Che mi sei, c'ha l'antenna di gomma, c'ha quello. Non ti sente Pompugno? Se c'ha la stazione dei puffi, c'ha. La stazione ti va a guardare ma otto, pensa tu. E quella è ma otto, c'ha. Come sa che mi sdraio un po' nel letto? Va per forza, va se vedo un decce, paghi il suo, Mi sdraio un po' nel letto, andata lì, la luce mi ha giovata, sono bello rilassato. Vedo un decce soprattutto. Ah, non ti credo, non ho mangiato niente, sono a dieta io. Milbus immagina. Vai, vai, gocca di. Vabbè, siamo a gocca, vado, ma il bisù. Sano ti sono stato, ti scendate a bu. Allora, non ti gucca. Vai, Luchino, Lucrezia. Lucrezia, tanto mi dà un po' la preda, poi si ritira. Che immaginate, Natalia? Sì, con me sempre con un caccia vita in mano, che ci rucca. Lo sa già da ore, lo caccia vita, è un preso. E paghi su non risponde, che va rimane impignato, adesso mi sto telefonando. Ecco male, l'ha chiamato MacGyver. Yeah. La squalettola. E beh, tu, sei come rendi. Sai che è sì. Non sto facendo roba di cucina. E un poco. E l'epis. Ma con i due. Cagli lo preparo della zena. Oh yeah. Allora sei cosa bella. È vero. Oi, Gian Marie. Che bella. Era scattato un pesce. Peppa. Cingo. Attento Cingo, si ascolti, capo. Ma è schifo il sistema, prima perché sono sotto casa tua, secondo perché sei troppo forte e togli quel cavolo di cosa, bla bla bla bla, basta tutto. Ecco a voi Bruno Uragano. Ehi, ti sento Bru, dove sei? Si è toccato la versi. La farmacia, ho capito. La farmacia che c'è via Ciriaco Carlo. Eh sì, guarda, da un tempo vado lì perché quando andavo lì a Nanini, via Romagna era un che non aveva una persona che sì, no, ma già ne ha di clienti anche quella, anche questa qua, perché io sono cliente da quando ho aperto, addirittura sono andato anche all'inaugurazione della farmacia, immagina, sono stato uno dei primi, cioè se non il primo, uno dei primi clienti. Qualcuno chi c'è? No, sono entrato adesso, non c'era nessuno, è presto ancora. Solitamente entrano dopo le 6:30, ma poi alle 7 porto il cane, poi vado a prendere la mia compagna, quindi è un casino. E non riesco mai a trovare il momento per parlare. Io l'ho portato adesso la fa. Poi però abituato a porto 9:30, capito? Per cui esco di notte, tranquillo, presto, va bene, non ci sono. E quest'ora sto facendo le pulizioni. Fanno questa parecchia macchina, abbiamo fatto gli attacchi nuovi, che ho perso l'attacco dell'accendino perché lo metto posticcio così sull'accendino e l'ho perso, c'è una causa del tempo. Adesso glielo ricordate, stavo provando, mi va bene. Ehi, ma perché non ti fa un attacco fisso come si deve, Bru? Stavo pensando, mi devo mettere l'attacco in squadra, non bucare una macchina, non so, non volevo. Anche perché... Allora, io, vabbè, l'antenna è posticcia, ce l'ho con la base magnetica, però l'attacco elettrico ce l'ho fatto bene, ce l'ho con fili grossi, tutto quanto, passato nella batteria, col fusibile, tutto quanto. E così almeno no, perché vai sovraccarico, magari ti brucia tutto. Tante volte non ce la fa manco quando attacca l'accendisigari, vabbè che è un baracchino con 5 watt e se non attacchi lineare già ce la fa. Vabbè, l'antenna sto usando, adesso sto usando la base, non è ricordo, l'antenna la famosa ricordo che ho fatto, che ho messo sulla capota, io un giorno sono andato in garage, sono verificato il togli all'antenna, mi ha capotato l'antenna, ma graffiato la capota alla macchina. Ci sono passato anche io, invece a me mi si è staccata l'andata al Alghero, in mezzo alla strada, e con la Turbo 2001, quella alta, che ha lo stesso attacco della tua, che però è più alta, è quasi 2 metri, 1,80 m, è pesante, si è staccata dalla capota e mi ha fatto tutta la strisciata se non arrivare giù, poi come è arrivata giù deve essere la base magnetica, ha colpito il cofano di dietro e mi ha fatto due piccolissime ammaccature, ma me le ha fatte. Perché mi avevano toccato dietro, ma la luce non va bene, ma la luce si stava toppando questa macchina, abbiamo chiesto, mi detto bastardo, abbiamo tutto il torpedo, fatto un po' qui davanti, avevo toccato la luce un pezzettino, Giulio mia, mi hanno toccato, abbiamo fatto la luce. E poi sulla capota è tutta svaporata la macchina. Tutta nuova l'hai fatta, dai. E vabbè, poia. Io, guarda, se la mia fosse stata più vecchia l'avrei messa fissa l'antenna, però è un'antenna che non dà nessun problema, capito? Quella che ho comprato io è un'antenna polacca ordinata dalla Germania, ma è piccola ma sincera, capito? È molto più leggera dell'altra, la calamita è molto più forte, quindi non si stacca, anche camminando non si stacca, e tante cose ci sono, ed è un'antenna fatta in Olanda, però la vedono in Germania. Oh, questa è abbastanza forte, anche perché l'antenna non è molto alta, è quello stiletto, c'è una base della carica sotto, mentre invece quella che hai tu, quella lunga, quando stai tirando che prendi molta velocità una macchina, quella prende molto vento e a quel punto si può capitare. Ma questa già va benino, ma tutte le volte tirare, mollare, tirare, vabbè che la frequenza non è sempre che entro, molte volte accendo, non c'è nessuno, spengo e va andando. E comunque mi hanno sentito anche a produttore con questa antenna, mi hanno sentito anche la Tramona salendo, adesso andare in punto, vabbè sono già all'altro dolce, per cui magari il segnale sarà già più basso. Ah, io ti sento sempre bene, Bru, sento sempre bene. Te l'ho consigliata io con l'antenna, non te lo ricordi, te l'ho fatta comprare io. Ah boh, non mi ricordo, probabile, perché io ormai ero troppo tempo fuori, non sapevo manco. Solo che sono andato lì da Fusaro e mi aveva dato questo cavo sottile, che adesso lo cambio perché un amico mi ha dato 5-6 metri di quel cavo grigio, quello che è un po' migliore, e poi non riesco a trovare, avevo due PL di quelli in bacchelite, cioè le bacchelite li avevo usati per casa, adesso devo comprare altre due PL, se trovo là però, perché questi in pratica sono esili, appoggia appena soldatore, si rimane in mano. si gira tutto, poi già lo so cosa, come so. Guarda, l'unica Bruno è ordinare da internet, ne ordina una decina che ce li hai in casa, capito? Oppure li dividi, se proprio non sai cosa fartene ci ridividiamo in due, non c'è problema, tanto a me mi servono sempre. Insomma, diciamo che è come la questione del cavo, che sono sempre gli amici, ho detto se per caso ordinate da internet del cavo di quello grigio, no? Ce lo ridividiamo, perché insomma alla fine a me 10 metri per metro pure mi bastano, ma se qualcuno se ne prende 20 metri anche 1,30, e così facciamo per il PL, perché non lo so se vale la pena ordinare 10 PL, ma dove si trovano per ordinare questi PL? C'è qualche azienda che li fornisce? Ce n'è più di una, ce n'è più di una che li fornisce, non so dove, ma su Google cerchi PL, infatti Spinotti PL te li mette chi li vende. Devo guardare, perché questi qua sono fatti, due vabbè li avevo trovati che erano di quelli buoni, erano in una scatola in garage, in soffitta, già di 30 anni, due di quelli battiditi belli, li ho usati, però almeno altri due vorrei metterli buoni, perché sto mettendo anche questo cavo grigio che non ha dato un amico un pezzo, adesso poi un altro amico, perché non se ne trova a comprarlo, me ne ha promesso un paio di metri per metterlo qui all'antenna della macchina, così almeno ho fatto l'antenna di casa e l'antenna della macchina. Il cavo grigio l'avevamo comprato, avevamo fatto un affare con un amico che si era comprato antenna e 100 metri di quel cavo lì per piazzarsi l'antenna, poi c'aveva un problema nel tetto che era spiovente e nessuno voleva piazzare né niente, allora ha rinunciato e mi ha detto qua se interessa l'antenna l'ha venduta un amico, e il cavo l'ha venduto, l'abbiamo preso in tre e ce l'abbiamo diviso. Infatti dobbiamo fare così, anche perché cosa ordino? 100 metri di cavo, lo già nel vuoto, avessi l'antenna sul tetto tanto quale. Allora adesso vediamo un po' se mi stai sempre sentendo, perché questo microfono è quello normale oltretutto, per cui sto usando quello Zodiac, sono già arrivato qui vicino a Sant'Orsola. Lu, ti sento meravigliosamente bello, ho chiuso, perfetto, va benissimo. Questo microfono, c'è un microfono normale, nell'altro che ho a casa ho quel microfono preamplificato, quello che devo tenere sempre al minimo, perché se lo sollevo fa casino, però ho chiesto i controlli, al minimo c'è quel cursore, no? Lo tieni a 1 per dire, anziché tirarlo su, e si sente meglio, forse per la macchina è anche più adatto quello là, perché quando si è lontano magari la radio è un pochettino più deboluccia con questo. Io ti sento bene. E allora ancora sono vicino, sono alle punti qua. Dove stai andando? Verso Porto Torre? No, sto andando alle punti qui da un mio amico meccanico a trovarlo. Fare quattro chiacchiere da un amico che ha lavorato con me in officina quando eravamo giovani, siamo rimasti amici tutta la vita, e ogni tanto vado a trovarlo, adesso è andato in pensione anche lui e l'officina la usa così per le macchine sue, un amante delle 500, prepara motori, macchine le 500 vecchie, no? Lui è nato le auto da corsa e allora ci ha appassionato, c'ha tutti questi motori elaborati e la sera non ne vado da lui a rompergli le balle. Capito, vabbè, avete la stessa passione, anche a te ti piacciono i motori, quindi condividi la passione, dai. E vabbè, poco male, dai. Le macchine, le 500, io ho avuto 5,95 Giannini, come prima macchina ho avuto quella, c'aveva tutta la strumentazione, i contagiri, dentro era tutta diversa dalle altre 500, capito? E poi avevo scoperto, un giorno sono andato da quell'elettrauto che c'era in via del Porto Ottore, non so se te lo ricordi, dove c'è Biresi Reci, laggiù c'era un elettrauto lì, e ho visto la macchina mia, un cartello grande, una fotografia grande, enorme, e c'era la mia macchina praticamente che faceva le gare. Ehi, ti ha parlato oggi di questa macchina, già io non se ne trovavo più. sono sparite tutte le Abarth, le Giannini, quelle Mike Carro, come cavolo si chiamavano, quelle altre, tutti questi che allestivano le 500, dai, tutte le 595, magari a trovare una di quelle oggi. Guarda, quelle che ci sono in giro, ce ne sono alcune in giro, di quelle, sono tutte camuffate, sono tutte fatte, ma come omologazione sono 500 normali, non se ne vedono più di quelle. Magari, quella che ce l'ha se la tiene conto. E io invece l'avevo data in demolizione, cioè, stava camminando ancora quando l'ho data io, perché mi era partita la guarita della testata e ci aveva la testata cromata. Dice che questo meccanico dove l'ho portata mi ha detto, guarda, adesso trovare la cromata è un casino, bisognerebbe metterla semplice, ma non rende più. Ha provato a mettermi una testata normale, ma la macchina non era bioetica, non andava più. Allora l'ho versata e me ne ho preso un'altra, l'ho mandata in rottamazione, ma quella mi faceva 130 nella risalita di Marini, faceva 130 quella macchina. Un occhio sorpassato con una Giulia accanto e mi ha guardato come dire, ma indisi andendi. E quella macchina lì però mi faceva 9 a litro blu, mi vergogno a dirlo. Insomma, io la prima, allora 500 ho avuto 4-5, ho avuto 2-3, la prima l'ho comprata, sono stato in serie che ce l'ho al monte, da Giuseppe Gallotta, nel 1971, ero lì in officina, sono entrato a lavorare in officina, ero a proprio lavorato in officina di vicino, e mi aveva venduto una 500L, 500L nuova fiammata, bella, sul fronte, con gli interni in rumi. E io l'avevo tutta lavorata, perché lei ho avuto sempre la mania dei motori, tutte le macchine che ho avuto, ho motori, la mania dei motori. Le macchine del 500 hanno sempre motori 120 cm, ho comandato la mano, tutte le modifiche che si fanno, il carburatore della Giulia da 40, facciamo tutto, si fanno un pochino tutto. E poi niente, la 1, vogliamo parlare della 1, la mia 1 aveva un motore del 17, è nata come 900 e aveva un motore della Vegas, molto di 4, sempre fatto da questo amico che ha. Ho avuto una Golf, 13 anni, viaggiavo, una Golf 1003, e sotto c'era il motore GT, mi pare che era 1006, insomma, non ho mai avuto un motore originale, a parte questi ultimi anni che sono totalmente veloce. Ma poi quando andavi a fare la revisione e la motorizzazione ti bocciavano. Guarda, mi sono diventato sostanzialmente, non è proprio la 1, mi ha parlato di 1982, vabbè, io correvo allora, facevo con la 1, lavorare con quel motore, non so quanti, io arrivo la mattina, c'era una arena, viaggiavo, era una cosa, era un spettacolo. Tu mettevi la terza e la quarta, stanno salendo la fumosa, perché vogliono fatto così, non levavi mai la terza e la quarta, era una cosa, perché la macchina era leggerissima, con un motore così potente era una cosa, quando partivo con il semaforo, magari c'era una macchina, va sotto, vabbè, allora diciamo che è divertito, ora no, già sono sempre piaciuti molto rielaborati, dai. Sì poi io ho avuto la 1, però ho avuto la Fire e consumava pochissimo, camminava bene e consumava poco. E poi ho avuto l'appunto SX 70KP e niente, però lì avevo avuto un incidente, me l'avevano distrutta. Mi hanno fatto l'assicurazione, 7.000 euro di danni, poi l'ho versata perché non mi fidavo più. Troppo lungo e poi troppo volti, va via. Sì, ma la macchina è andata così.